GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. L'aveva detto Riccardo Ricò che il primo arrivo in salita del Tour de France poteva essere suo. Ebbene, Ricò è stato di parola, vincendo in volata la sesta tappa della Grand Boucle, che ora ha anche una nuova maglia gialla. Ieri pomeriggio una piccola ma sostenuta scossa tellurica, una salitella di seconda categoria con i soli 1500 metri finali a fare davvero paura e a fare male. Ricò che si esalta e raccoglie l'ammirazione della Francia e del mondo che ha a cuore le sorti del Tour de France. Schumacher che cade e deve cedere la maglia gialla al lussemburghese Kim Kirken, il nipotino di Charlie Gaul. Cunego che soffre ma resiste, tiene duro, non molla, se non quei dannatissimi 32 secondi. Nibali che deve abbandonare i sogni di gloria ed esce definitivamente di classifica, almeno per ora. Classifica ridisegnata con Cadel Evans lì a soli 6 secondi dalla maglia gialla e Ricò che al momento è 31esimo in classifica generale a 3 minuti e 52 secondi, ma è più che mai in corsa anche se lui adesso gioca a nascondersi. Oggi tappa breve e impegnativa, senza pianura ma con molti trabocchetti. Piero Augusto Astaggio, Gira 24, Sole 24 Ore, Brioude. Il calcio mercato registra il primo colpo dell'Inter che chiude con la Roma l'acquisto di Mancini per circa 14 milioni di euro. La Juventus intanto cerca sempre Poulsen o Xabi Alonso, il tecnico Ranieri. E stiamo fortificandoci. Il mio pensiero l'ho riferito alla società e adesso stiamo aspettando. Ma la cosa importante è come quella che ci ha portato alla scelta di Amauri, è che chi arriva deve andare bene con gli altri centrocampisti. Per la Formula 1 Ferrari al lavoro sulla pista tedesca di Hockenheim in vista del Gran Premio del 20 luglio. Sentiamo Felipe Massa. Accettiamo anche delle critiche quando non facciamo delle cose bene, però è un campionato combattuto, un campionato molto difficile, però abbiamo una grande squadra, una squadra meravigliosa, dei grandi ingegneri, una macchina molto buona, quindi questa è la cosa più importante di lavorare per essere consistente nelle prossime gare. Domenica intanto, sempre in Germania, al Sachsenring, tocca la MotoGP, lo spagnolo della Yamaha Lorenzo sulla corsa al titolo. Diciamo che Valentino è il che tiene più carisma, che tiene più esperienza e che ha vinto tanto, magari tiene la esperienza necessaria per vincere, ma anche dopo c'è Pedrosa che è molto regolare, molto intelligente e anche adesso c'è Stoner che sembra che è il più veloce, allora è una mezcla di varie... caratteristica delle tre pilota, no? Per la scherma, bronzo per gli azzurri della spada agli europei di Kiev. Le azzurre della pallavolo sono state invece sconfitte 3-0 dal Brasile nella finale del World Grand Prix. Oggi la sfida con il Giappone. Nella pallanuoto femminile l'Italia cede alla Russia 8-5 a Malaga. In finale russe contro spagnole. 4 anni fa stava per conquistare l'argento ai Giochi di Atene. Oggi la nazionale azzurra di basket preannuncia lo sciopero contro il poco spazio riservato in campionato ai giocatori italiani. Il CT Recalcati intervistato da Flavio Suardi. Tutti si fanno belli dicendo che la nazionale va preservata, che la nazionale va tutelata, però poi dopo quando arrivi a dimostrarlo, insomma, non tutti sono disposti a fare il primo passo. Solo ora stanno prendendo coscienza del fatto che effettivamente si arriverà a un blocco quantomeno degli allenamenti della squadra nazionale. Probabilmente in passato, nel recente passato, si è pensato, beh, ma tanto poi comunque insomma la cosa si risolve, si alleneranno. Invece mi sembra proprio che in questo momento la cosa non sia esattamente così e chi deve decidere comincia a accorgersene. E l'intervista integrale a Recalcati andrà in onda oggi durante Tempo di Sport alle 14. Chiudiamo con la grande atletica. Stasera a Roma il Golden Gala. Occhi puntati sul velocista giamaicano Asafa Powell, su Oscar Pistorius e sul salto in alto femminile con la nostra Di Martino che sfida la campionessa mondiale Vlasic. È una finale olimpica e sono contenta di questo. Perché sarà una gara molto combattuta. E per GR Sport è tutto. Buona giornata da Dario Ricci.